Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati alla nostra rubrica dedicata ai libri di economia. Oggi parliamo con Marco Fortis. Buongiorno professor Fortis. Buongiorno. Marco Fortis, responsabile dell'Ufficio Studi Economici Edison, docente di economia industriale e commercio estero nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Cattolica di Milano, collabora al Messaggero e a Economy, ha scritto un libro in cui vengono peraltro raccolti anche alcuni articoli scritti negli ultimi mesi, che si intitola La crisi mondiale e l'Italia, edito dal Mulino. La crisi mondiale c'è, allora iniziamo da un giudizio sintetico. Come si sta comportando l'Italia in questa crisi mondiale? Professor Fortis. L'Italia si sta comportando in un modo abbastanza decoroso rispetto al disastro che è stato provocato a livello mondiale dalla grande crisi del debito e della finanza. È un paese, il nostro, essenzialmente manifatturiero, quindi come tutti i paesi manifatturieri esportatori come la Germania, il Giappone, la stessa Cina, ha subito naturalmente i contraccolpi della trasmissione all'economia reale degli effetti della crisi finanziaria. La domanda mondiale si è piantata, sia quella di beni di investimento che quella di beni di consumo durevoli, e conseguentemente il nostro paese sta soprattutto soffrendo a livello di esportazioni, molto meno invece a livello di consumi interni, perché le nostre famiglie sono meno indebitate di quelle di altri paesi. Ecco, infatti di questo si parla, per esempio dell'introduzione del professor Alberto Quadriocuzio. Si dice che l'economia italiana risulta molto più solida rispetto alla descrizione data nei per anni dalla stampa estera, da buona parte di quella nazionale. Nel confronto con molte altre economie dell'Unione Europea, per anni celebrate come successi da imitare. Così, prosegue il professor Quadriocuzio, mentre la Spagna, l'Irlanda e persino la Gran Bretagna vivono oggi una crisi molto seria, l'Italia per ora resiste grazie alla sua manifattura, a un basso indebitamento delle famiglie e a un consistente risparmio. Questa nell'introduzione del professor Alberto Quadriocuzio al libro La crisi mondiale e l'Italia, appunto, di Marco Fortis. Allora, l'Italia forse, professor Fortis, stenta a mettere in risalto i dati positivi e mette più in luce nei suoi commentatori, nei suoi commenti, i dati di difficoltà. Beh, certamente abbiamo avuto una grande miopia in questi anni nelle valutazioni sia interne che esterne al nostro paese riguardo allo stato di salute della nostra economia. Ricordo che prima che scoppiasse questa crisi abbiamo vissuto un lungo periodo di declinismo, cioè di tendenza a vedere sempre tutto nero nella nostra economia. Eravamo arrivati al punto di dire che dovevamo uscire dal settore manifatturiero perché non eravamo più competitivi, mentre invece il nostro settore manifatturiero è riuscito negli ultimi 2-3 anni, a partire dal 2005 fino a tutto il 2008, prima che scoppiasse la crisi, a guadagnare quote di mercato, e addirittura è tra i paesi del G6 quello che ha maggiormente incrementato la sua quota nell'export di manufatti del G6 stesso. La Germania nel 2008 ha perso quote di mercato, invece l'Italia fino all'inizio della crisi ha continuato a aumentare le sue quote di mercato. Questo dimostra che la nostra industria è molto forte. Certamente abbiamo problemi strutturali ben noti, come quelli del debito pubblico, del divario nord-sud che ci trasciniamo da anni, il peso della burocrazia, ma il nostro paese non era poi così in declino come veniva dipinto. A maggior ragione questa crisi sta facendo emergere quanto fosse profonda la miopia di valutazione, perché i paesi che apparentemente crescevano più di noi negli anni scorsi e che venivano considerati dei modelli da imitare, crescevano soprattutto perché stavano crescendo i loro consumi, che erano supportati da un incremento stratosferico di debito delle famiglie soprattutto. E questo tipo di crescita alla fine è saltata nel momento in cui tutto il meccanismo di obbligazioni collateralizzate legate ai mutui subprime americani e di altri paesi sono praticamente esplose, determinando il fallimento di banche e la caduta delle borse. Ecco, certamente l'economia italiana è molto meno finanziarizzata, molto meno basata sul debito privato rispetto alle altre economie, però è comunque un'economia che appartiene all'area ormai dell'economia globale, e questo è stato anche un elemento di forza negli ultimi anni. Questa globalizzazione in questa fase rischia di essere qualcosa che frena pesantemente l'economia proprio sul fronte della domanda internazionale, quindi bisogna fare i conti anche con questo. Forse non siamo post-industriali, ma non siamo nemmeno post-globalizzati. Beh, certamente, lo dicevo prima, l'impatto pesante di questa recessione mondiale sui paesi esportatori non risparmia neanche l'Italia, questo è sicuro, tant'è vero che abbiamo alcuni settori, soprattutto proprio i settori che avevano maggiormente brillato negli ultimi anni, i settori esportatori dei macchinari industriali che erano stati venduti in tutti i paesi del mondo, soprattutto nelle economie emergenti, in modo particolare la Russia, i paesi arabi. Ecco, queste esportazioni si sono completamente fermate, non perché i nostri produttori di macchine, di meccanica siano improvvisamente diventati dei brocchi e non siano più competitivi, ma perché la domanda mondiale si è completamente bloccata. In questo momento in nessuna parte del mondo vi sono imprenditori che acquistano dei camion o delle macchine industriali perché tutti aspettano che la crisi finisca per prendere delle decisioni di investimento. Questo penalizza notevolmente le nostre imprese, ma non significa che le nostre imprese non abbiano carte da giocare nel momento in cui la domanda internazionale riprenderà, soprattutto in paesi come quelli legati alle disponibilità di energia, vedi Russia e paesi arabi, o la Cina, che sta sviluppando una notevole domanda interna attraverso opere infrastrutturali, possono dare quindi questi paesi un contributo che certamente ravviverà le nostre esportazioni nei prossimi anni. Non bisogna perdere la fiducia, l'ho scritto qualche tempo fa anche sul Sole 24 Ore, nella nostra vocazione manifatturiera, perché è vero che la crisi ci sta penalizzando, però è molto meglio essere capaci di fare qualche mestiere che essere legati soltanto a settori come quelli della finanza creativa, che sono poi esplosi miseramente in altri paesi nel corso di questi ultimi tempi. Ecco, in questa prospettiva cosa sarebbe necessario fare per permettere all'industria di tenere il respiro per i mesi in cui bisogna attraversare il guado della crisi, in attesa appunto che la domanda mondiale si riprenda, che anche le grandi economie come quella americana, ma anche come quella cinese, come quella indiana, riprendano a marciare come ci avevano abituato in fondo degli anni passati? Purtroppo le agenzie di rating continuano ad attribuire i loro valori sulla base solo del debito pubblico dei vari paesi e quindi abbiamo paesi come gli Stati Uniti o altri che hanno dei rating molto elevati, l'Italia l'ha molto più basso. Se fosse possibile considerare il debito aggregato, cioè mettere assieme il debito pubblico anche il debito delle famiglie e delle imprese, l'Italia oggi avrebbe un rating molto migliore e potrebbe fare anche maggiore spesa pubblica per sostenere l'economia in questo momento di crisi. Purtroppo però non possiamo farlo, siamo legati ai giudizi spietati che ancora prevalgono nella convenzione sulla misura dello stato di salute dei vari paesi legati al debito pubblico e quindi il nostro governo ha preso delle misure piuttosto limitate, tenuto conto dei vincoli di debito pubblico, ha sostenuto un po' i consumi di autoveicoli e qui qualche risultato c'è stato perché comunque si è arrestata la caduta che invece continua molto forte in diversi altri paesi della domanda di autoveicoli, c'è stato un intervento anche a favore di qualche altro settore, soprattutto legato al problema di utilizzo di materiali o tecnologie a risparmio energetico, vedi elettrodomestici o anche nel settore dell'arredo, potrebbe essere molto utile un qualche misura di sostegno anche degli investimenti interni, magari con delle misure fiscali che possano consentire agli imprenditori italiani che hanno ancora disponibilità per fare degli investimenti di acquistare macchinari e di poter detrarre fiscalmente l'acquisto di questi macchinari per un certo periodo di tempo o utilizzare delle misure di ammortamento più libere di quelle attuali. Ecco, quindi la necessità appunto di permettere all'industria di superare un po' questi momenti che si prolungono, dei mesi di difficoltà in attesa appunto che lo scenario internazionale diventi più sereno. E nell'introduzione, concludendo appunto l'introduzione a questo libro, scrive ricordando una dichiarazione del cinese Wen Xiaobao a Davos all'inizio dell'anno, in cui si dice che bisogna ritrovare un equilibrio tra manifattura e finanza, tra chi consuma e chi risparmia. Solo così la primavera è dietro l'angolo e l'inverno passerà. Ecco, una classica, diciamo, una frase di saggezza un po' che viene dalla Cina. La primavera è dietro l'angolo, la primavera in tempo meteorologico sta passando. Quella sotto il profilo, diciamo, congiunturale sembra ancora lontana. Possiamo aspettare aspettarci questa ripresa per la fine del 2009 o l'inizio del 2010, Marco Fortis? Ma anche se diciamo i punti più profondi della crisi sono probabilmente già stati toccati, ci sono in prospettiva ancora dei mesi molto difficili che ci attendono. Io credo che dovremmo abituarci a un profilo di crescita molto lento, perché in questi anni l'intero sistema economico mondiale ha attrezzato la sua capacità produttiva, non solo nell'industria ma anche nei servizi, compresi quelli finanziari, sulla base di una domanda che era artefatta, era sostenuta in maniera abnorme dal debito appunto privato di famiglie, imprese, banche. Quindi per tornare ai livelli produttivi, ai livelli di domanda a cui eravamo abituati prima di questa crisi, dovremmo attendere a lungo, perché ci sarà proprio un fenomeno di assestamento. Questo fenomeno di assestamento durerà probabilmente anche un anno e mezzo, due forse, perché tanti sono i problemi che affliggono oggi ancora molti settori chiave dell'economia mondiale, come l'edilizia per esempio, ma anche il settore dell'auto, lo stesso settore dei beni di investimento, e l'unica cosa su cui possiamo sperare, ma è un'arma a doppio taglio, è che il prezzo dell'energia risalga e quindi ridia capacità di potere d'acquisto a paesi che sono importanti clienti dell'Italia, come la Russia e i paesi arabi. Però, ripeto, è un'arma a doppio taglio, perché poi va a pesare anche sulla nostra bilancia dei pagamenti. Sui nostri conti, a cui dobbiamo ancora comunque avere una grande attenzione. Comunque, ecco, in questa prospettiva, pur una crisi prolungata, in difficoltà prolungate di assestamento, l'Italia ha ancora molte carte da giocare. Almeno questo esce dall'analisi di Marco Fortis, che ringrazio, nel suo libro La crisi mondiale e l'Italia, edito dal Mulino, un libro che costa 14 euro, a circa 200 pagine, un libro che raccoglie gli articoli scritti appunto da Marco Fortis sul Messaggero, su Economist, e un'introduzione di Alberto Quadrio Curzio e dello stesso Fortis. Grazie. Economia in pagina. Buongiorno, bentornati alla nostra rubrica dedicata ai libri di economia. Abbiamo parlato nella prima parte della crisi mondiale e l'Italia, una panoramica sulla situazione del nostro paese, una situazione che presenta anche alcuni aspetti positivi dal punto di vista sia macro sia microeconomico. Ma adesso affrontiamo i temi economici secondo una prospettiva, direi, completamente diversa. Non parliamo di aggregati monetari, di produzione industriale, di prodotto interno lordo, parliamo di quello che sta in fondo alla base dell'economia, cioè la persona, e lo facciamo con il professor Nicolao Bonini. Buongiorno professor Bonini. Buongiorno. Nicolao Bonini è professore ordinario di psicologia generale nella Facoltà di Scienze Cognitive dell'Università di Trento e ha scritto insieme a Konstantinos Ikridis, spero di averlo pronunciato bene, il libro Il sesto senso, emozione e ragione nella decisione. E allora, professor Bonini, una domanda: che ci azzecca questo libro con i libri di economia? Ci azzecca molto, un libro che si colloca in una tradizione di pensiero che ha visto studiosi insigniti del premio Nobel per l'economia, e questa è già una prima risposta. Penso a Maurice Allais, penso a Herbert Simon, penso recentemente a Daniel Kahneman, che è uno psicologo che ha ricevuto nel 2002, ex aequo con Berno Smith, il premio Nobel per l'economia. Ecco, quindi è un libro di economia perché parla appunto di quello che è la ragione fondamentale dell'economia, cioè la persona e le sue scelte. Non ci sarebbe il mercato, non ci sarebbe economia se non ci fossero persone che scelgono di acquistare, di produrre, di fare gli imprenditori, di consumare qualcosa al posto dell'altra. E lei in questo libro vuole mettere in luce che cosa comporta, quali sono le ragioni di fondo che portano alle scelte economiche. Qui allora bisogna andare necessariamente sul campo della psicologia. Sì, in questo libro quello che cerchiamo di, come dire, analizzare, discutere sulla base di esperimenti è il ruolo dell'intuito, della decisione intuitiva, il sesto senso per l'appunto, e con questo si intende, si fa riferimento a quelle decisioni che sono rapide, che ci sembra che sia buono procedere in una certa direzione piuttosto di un'altra, e spesso non si sa bene anche perché. Un esempio di valutazione intuitiva è quando noi vediamo, o alla televisione o di persona, un volto nuovo e in pochi secondi abbiamo un'impressione o di fiducia di potersi fidare o meno, o ci è simpatico o antipatico. Questo è un bel esempio di quello che si intende per valutazione intuitiva. Ecco, un po' quello che si dice è un po' l'emozione, il fatto di decidere sulla base di scelte che non rispondono delle logiche classiche di razionalità, cioè del porre in confronto il rapporto tra il prezzo e la qualità, tra la convenienza, ma si fanno delle decisioni di acquisto perché piace sul momento, perché si ha una soddisfazione magari immateriale, magari del tutto psicologica. Quindi è la vittoria dell'emozione sulla razionalità. In alcune frangenti sì, però vorrei riprendere il discorso di apertura che ha fatto, cioè non vorrei dare l'impressione che la psicologia si occupa solo ed esclusivamente delle decisioni individuali. In realtà può avere un impatto anche per la comprensione del sistema, dell'aggregato. All'inizio lei faceva riferimento al prodotto interno lordo, cioè a misure che sono di aggregato, che sono il frutto di una decisione, di una comunità, di un insieme, di una moltitudine di individui. Ecco, penso che la frontiera del rapporto tra psicologia e economia sia proprio questo, il rapporto, il fattore psi, il ruolo che il fattore psicologico ha nel poter descrivere le anomalie, questa volta non più individuali, scelte individuali, ma del sistema. Questo penso sia veramente, noi lo trattiamo qua e là nel libro, ma penso che sia diciamo, l'argomento di frontiera che nei prossimi anni... Però questo mette un po' in crisi tutta la visione classica dell'economia. Non a caso Riccardo Viale nell'introduzione scrive: la teoria della razionalità, che viene ereditata dalla tradizione filosofica e posta alla base della teoria dell'azione dell'economia del secolo XIX, è caratterizzata dagli attributi di illimitata a priori e linguistico intenzionalista. La sua supposta valenza descrittiva è basata sulla presunzione a priori dell'universale razionalità del genere umano e non sulla giustificazione a posteriori delle reali capacità razionali umane. E quindi, per un po' descrivere questa frase che sembra un po' difficile, cioè la razionalità può essere colta solo successivamente, non come motivazione che lascia pensare possibile prevedere che cosa farà la persona, ma solo in senso successivo, quando l'azione si è svolta, quando l'evento economico si è realizzato, si può attribuire a questo evento delle doti di razionalità o di emotività. Sì, ha ragione, direi che è entrato in crisi, ma questo diciamo non è una novità, per gli addetti ai lavori ormai da molto tempo, e questi diciamo riconoscimenti internazionali, premio Nobel lo sanciscono, sanciscono questa tesi, è che l'idea di un uomo olimpico in grado di decidere in funzione di una qualche ottimizzazione, insomma, massimizzazione di un beneficio, minimizzazione di un costo, non tiene alla luce dei fatti, non tiene alla luce dell'analisi del comportamento così come si svolge nelle strade, cioè rispetto all'uomo in carne ed ossa, non questo uomo olimpico. Ecco, ma questo sì, presuppone prego. Che appunto poi di fatto le previsioni siano impossibili, o le previsioni sono possibili tenendo conto dei fatti non razionali? Beh, adesso una teoria psicologica in grado di predire esattamente lo spostamento o la decisione del singolo individuo non c'è, non credo onestamente ci sia una scienza in grado di fare una predizione così forte. Quello che si può dire ad oggi è che la psicologia, le scienze della decisione in generale, offrono una chiave di lettura che diversamente non si avrebbe, cioè una chiave di lettura di fenomeni anche a livello macro, e questa è la frontiera, non solo a livello micro, di decisioni che sono apparentemente irrazionali. Vorrei citare, se me lo consenta, due esempi, non di uno psicologo, ma di un economista famoso della Bocconi, così come sono stati riportati sulla stampa, cioè il professor Giavazzi. Nel 2006, se non sbaglio, la Società Italiana degli Economisti citò due episodi, due storie che sono esemplificative a questo riguardo. La prima faceva riferimento all'abolizione del sistema del welfare da parte di Schroeder, se non ricordo male, nel 98, abolizione del sistema welfare voluta da Kohl. In breve, quello che è successo è che queste famiglie avevano maggiore disponibilità di denaro, c'è stato un incremento nel numero di straordinari di ore lavorative, ma non c'è stato un analoga incremento nella spesa. Insomma, l'idea che avere più denaro equivalga necessariamente a spendere di più, in quel caso non si è verificata. Perché una possibile interpretazione è quello stato di dubbio, di incertezza che regnava in quel periodo. si dice appunto come questa riforma Woodrow-Kohl fosse stata proposta e approvata proprio, come dire, sottolineando al grande pubblico l'esigenza di poterla fare, altrimenti il sistema non avrebbe. Quindi si parla di incertezza, si parla di dubbio, si parla cioè di valutazioni soggettive che entrano in questo sistema e contribuiscono a modificarlo. Questo è un elemento importante ed è un esempio. Poi viene un altro, se voglio lo racconto, riguarda la riforma del sistema fiscale voluta da George Bush padre nel 2001 con l'introduzione di grosse somme di rimborsi fiscali, e anche in quel caso non ha funzionato. Del perché non ha funzionato sono fenomeni complessi, ci possono essere diverse spiegazioni, ma una possibile spiegazione, almeno quella proposta da alcuni economisti, era che vi era incertezza su quando ottenere questo rimborso fiscale. Gli psicologi, anche alla luce di studi recenti, dimostrano che un rimborso fiscale psicologicamente non può essere paragonato a un bonus, che può essere una liquidazione, che può essere un assegno familiare, che può essere denaro a una social card. Quindi sono tutti elementi, il dubbio, la percezione di valore, i cambiamenti di valore rispetto non in assoluto ma a punti di riferimento, che fanno riferimento a teoria psicologica e che difficilmente possono essere colti con le vecchie lenti dell'analisi economica statica. Ecco, ma questo mette molto in difficoltà chi deve assumere delle decisioni di politica economica, perché se può essere facile pensare che mettendo una quantità di moneta si possono aumentare i consumi, è un po' più complesso pensare che bisogna immettere fiducia per aumentare i consumi. Come fare per immettere, per esempio, in questa fase dell'economia molto difficile, molto controversa, molto complicata, quella fiducia che sarebbe necessaria per ridare un po' di ossigeno al circuito economico? Professor Bonini. Ecco, non esistono ricette facili. Quelle che le posso raccontare è un'esperienza diretta. Alcuni anni fa il laboratorio che coordino, il laboratorio di ricerca sulla decisione all'Università di Trento, abbiamo avuto insieme a altri partner europei un finanziamento dell'Unione Europea per studiare il comportamento dei consumatori in condizioni di crisi alimentare, insomma un capazzo, ne abbiamo tantissimi di esempi di crisi alimentare. Nella fattispecie il nostro gruppo ha studiato la fiducia, per l'appunto, quali sono i determinanti della fiducia, e abbiamo scoperto che rispetto a una decisione se acquistare o meno un prodotto potenzialmente contaminato, quale il pollo, adesso non mi ricordo cosa abbiamo studiato, il pollo, il salmone, diversi tipi di prodotti, quello che contava più di tanti altri fattori, tipo la cultura, tipo il livello di istruzione del consumatore, tipo l'esperienza nel fare la spesa, era la percezione di condivisione di un valore con la controparte, essendo la controparte o il produttore o il distributore o le autorità garanti preposte a garantire la qualità di questi prodotti. Quindi questo è un elemento evidentemente forte, ma di natura psicologica. Ecco, quindi il rapporto con un'altra persona più che il rapporto con le cose, più che una certificazione di qualità, è il fatto che il produttore sia affidabile, quindi una garanzia di affidabilità. Quindi è un po' un ritorno a un'economia dal volto umano, possiamo chiamarla così, professor Bonini? Sì, le percezioni contano, le valutazioni contano. Le faccio un altro esempio per sostenere questa tesi dell'importanza delle valutazioni. E per concludere. Sì, prendo in considerazione l'indice del sentimento del consumatore, l'indice della fiducia del consumatore. Molti studiosi hanno sostenuto che questo indice permette di fare una buona previsione a breve dell'andamento della congiuntura. È un indice qualitativo, cioè si intervista il padre di famiglia rispetto a quella che sarà la sua presupposta situazione, prevista situazione a breve. Non importa se ha ragione o se ha torto, quello che importa è che si crede. E siccome ci crede si comporta di conseguenza. Quindi questo è un buon esempio per capire il ruolo della valenza nell'analisi del sistema economico di quelle che sono le aspettative psicologiche non razionali. Certo, aspettative appunto che fanno parte della persona, del sentimento della persona, che poi sono quello che contano nel prendere le decisioni. Grazie professor Bonini, abbiamo parlato del libro Il Sesto Senso, scritto insieme a Costantinos Adikristidis, Emozione e ragione nella decisione, edito dal Sole 24 Ore, costa 21 euro, a 120 pagine ed è un approfondimento della logica che sta dietro le scelte economiche, visto da un profilo appunto psicologico e comportamentale. Grazie ancora a professor Bonini, grazie a quanti ci hanno seguito.